Di Laura Ingalls Wilder, Gli anni d'oro, settimo volume del ciclo La casa nella prateria. Gallucci Editore, traduzione di Paola Mazzarelli. Capitolo primo, lontano da casa. Domenica pomeriggio il cielo era azzurro e la prateria innevata scintillava nel sole. Da sud soffiava un vento leggero, ma faceva così freddo che i pattini della slitta stridevano sulla neve compatta. Gli zoccoli dei cavalli mandavano un suono sordo, cloppiti, cloppiti, clop. Papà taceva. Seduta accanto a lui, sulla tavola inchiodata di traverso sulla slitta, anche Laura taceva. Non c'era nulla da dire, stava andando a fare la maestra, lontana da casa. Fino a ieri era ancora una scolara, oggi era una maestra. Com'era stato tutto improvviso! Continuava a pensare che l'indomani sarebbe andata a scuola con Carrie come tutte le mattine e che si sarebbe seduta al suo posto nel banco con Ida Brown. Ma non era così. Sarebbe entrata in una classe e si sarebbe seduta alla cattedra. Ma come si fa a fare la maestra? Nessuno gliel'aveva detto. E lei non aveva nemmeno compiuto 16 anni, l'età minima per insegnare. Ne aveva ancora 15 e per la sua età era piccolina di statura. Ora poi si sentiva piccolissima. Tutto intorno si stendeva a perdita d'occhio la vasta prateria bianca, appena ondulata. Il cielo era alto, lontano e tutto vuoto. Laura non si voltava a guardare indietro. Sapeva che il paese era ormai a miglia di distanza, una macchiolina scura nel bianco, e laggiù, a miglia di distanza, nella loro bella casa calda c'erano mamma e Carrie e Grace. Anche l'insediamento di Brewster, dove erano diretti, era a miglia di distanza, 12 miglia dal paese. Laura non aveva idea di come fosse quel posto, non conosceva nessuno laggiù. Aveva visto il signor Brewster una volta sola, quando erano venuti ad assumerla. Era magro e scurito dal sole come tutti i coloni ed era un tipo taciturno. Papà teneva le redini salde in mano e guardava fisso avanti. Ogni tanto dava una voce ai cavalli, ma sapeva come si sentiva Laura, perché a un certo punto si voltò a guardarla e, come a rispondere alle sue paure, disse: «Bene, Laura, eccoti diventata maestra. Lo sapevamo che sarebbe successo, vero? Magari non ce lo aspettavamo così presto. Ma ce la farò, pa?» chiese Laura. E se poi i bambini non mi obbediscono quando vedono che sono così piccola?» «Ma certo che ce la farai», disse papà. «Sei sempre riuscita a fare tutto quando ti ci mettevi, no?» «Sì, però non ho mai fatto la maestra.» «Ma ogni volta che hai dovuto affrontare una cosa nuova l'hai affrontata e ne sei sempre venuta a capo. Non hai mai cercato scorciatoie, ti sei impegnata e hai fatto quello che volevi fare. Anche a venire a capo delle novità si fa l'abitudine, come a tutto il resto.» Tacquero di nuovo. Si sentiva solo lo stridio dei pattini sulla neve ghiacciata e il clop, clopiti, clop degli zoccoli dei cavalli. Le parole di papà l'avevano un po' riconfortata. Era vero, sì. Si era sempre impegnata ed era sempre riuscita a fare le cose che doveva fare. Ora doveva fare la maestra. «Te la ricordi quella volta al Plum Creek, scricciolo?» disse papà. «Quando mamma ed io eravamo andati in paese ed è scoppiata una bufera di neve. Tu hai portato dentro la legna, tutta la catasta.» Laura scoppiò a ridere e la risata di papà risuonò come una campana nel grande silenzio della prateria. Com'era piccola allora, piccola e spaventata e anche un po' buffa. Aveva riempito la casa di legna. Quanto tempo era passato da allora? «È così che si affrontano le cose», disse papà. «Abbi fiducia in te stessa e ce la farai sempre. Avere fiducia in te stessa è l'unico modo perché anche gli altri abbiano fiducia di te.» Tacque un momento, poi disse: «Ma c'è una cosa a cui devi stare attenta.» «Che cosa, pa?» «Sei sempre troppo precipitosa, scricciolo, e ti capita di agire o di parlare prima di avere riflettuto. Devi imparare a pensare prima di parlare. Se ti ricordi questo, non avrai mai problemi.» «Ci starò attenta, pa», promise Laura. Faceva un po' troppo freddo per parlare, ma loro erano ben avvolti in trapunte e coperte, andavano verso sud e avevano il vento proprio in faccia. La traccia appena visibile correva dritta a perdita d'occhio. Per il resto non c'era nulla da vedere, a parte la sterminata distesa bianca, lo sterminato cielo celeste e l'ombra azzurra dei cavalli che scivolava sulla neve. Il vento faceva svolazzare lo scialle di lana nera che Laura si era tirata fin sul naso e le sbatteva sulla bocca i grumi di ghiaccio umido che suo fiato ci aveva condensato sopra. Dopo un bel po' apparve una casa all'orizzonte, minuscola per la distanza. Via via che si avvicinavano, diventava più grande. Mezzo miglio più in là ce n'era un'altra più piccola e più oltre un'altra ancora. Poi ne apparve una quarta. Quattro case. L'insediamento era tutto lì. Quattro case, lontane l'una dall'altra, sperdute nella prateria. Papà fermò i cavalli. La casa del signor Brewster sembrava fatta da due baracchette, di quelle che i coloni costruivano sulle loro concessioni, appiccicate in modo da far venire fuori un tetto a due spioventi. Sul tetto, coperto di carta catramata, la neve si era sciolta tutta e dalla gronda pendevano lunghi ghiaccioli bitorzoluti, più grossi del braccio di Laura. Sembravano immensi denti aguzzi. Alcuni arrivavano addirittura fino a terra, altri erano spezzati a metà e i pezzi giacevano semi affondati nella neve sporca attorno alla porta. Non c'erano tende alle finestre, ma dal tubo della stufa ancorato al tetto, con tiranti di fil di ferro, saliva uno sbuffo di fumo. Il signor Brewster uscì sulla soglia. Dentro si sentiva urlare un bambino. «Venga, venga, Ingos, venga a scaldarsi!» disse a voce alta per coprire le urla. «Grazie!» rispose papà. «Ma 12 miglia sono lunghe, è meglio che vada!» Laura sgusciò fuori dalle coperte in fretta perché non ci si infilasse sotto l'aria gelida. Papà le porse la sacca di mamma che conteneva la biancheria di ricambio, l'altro vestito e i suoi libri di scuola. «Arrivederci, pa!» «Arrivederci, Laura!» Gli occhi azzurri sorrisero a farle coraggio, ma 12 miglia erano tante e Laura sapeva che non sarebbe tornata a casa per 2 mesi. Entrò subito, venendo dal sole in un primo momento non riuscì a vedere nulla. «Questa è mia moglie», disse il signor Brewster. «Lib, ecco la nostra maestra». Accanto alla stufa c'era una donna che rimestava in una padella sfrigolante. Aveva l'aria arrabbiata. Un bimbetto piagnucoloso, con la faccia sporca e il moccio al naso, le stava aggrappato alle gonne. «Buonasera, signora Brewster», disse Laura nel tono più cordiale che seppe trovare. «Vai a posare la tua roba di là», disse la signora Brewster. «Ci sono dei ganci dietro la tenda, vicino al divano». E voltandole le spalle, tornò a rimestare nella padella. Laura restò interdetta. Cosa poteva avere fatto da offenderla se era appena arrivata? Non sapendo che pensare, andò nell'altra stanza. La casa era divisa in due parti uguali da un tramezzo che correva in corrispondenza del colmo del tetto. Di qua e di là le travi e la carta catramata degli spioventi scendevano verso le pareti esterne, che erano basse e fatte di tavole sovrapposte, chiuse lungo le fessure da listelli di legno. Ma mancava tutto il rivestimento interno, tant'è che si vedevano ancora i montanti. Era un po' come la loro casa in campagna, ma più piccola e non aveva controsoffitto. L'altra stanza non era riscaldata, naturalmente. Aveva una sola finestra da cui si vedeva la distesa bianca della prateria. Contro il muro, sotto la finestra, c'era un divano con lo schienale di legno nero sagomato e un bracciolo tondeggiante, che era stato preparato a mo' di letto. Ai lati, contro le pareti, c'erano due tende di cotonina marrone appese a un filo che correva sopra la finestra, da una parte all'altra della stanza. Tirandole, si nascondeva il divano. Contro la parete opposta c'era un letto, con giusto lo spazio al fondo per un cassettone e un baule. Laura appese cappotto, sciarpa, scialle e cappuccio ai chiodi dietro la tenda e posò la sacca lì sotto sul pavimento. Si fermò un momento, anche se tremava dal freddo, perché non aveva nessuna voglia di tornare nell'altra stanza dove c'era la signora Brewster. Ma tant'è, non poteva restare lì per sempre e alla fine si decise e tornò di là. Il signor Brewster era seduto accanto alla stufa col bimbo sulle ginocchia. La signora Brewster stava rovesciando il sugo della padella in una ciotola. La tavola era apparecchiata con piatti e coltelli buttati là alla rinfusa su una tovaglia bianca piena di macchie e tutta sbilenca. «Posso fare qualcosa, signora Brewster?» chiese Laura facendosi coraggio. L'altra non rispose. Rovesciò le patate su un piatto e lo sbatté sul tavolo. La pendola a muro cominciò a ronzare, preparandosi a battere le ore, e Laura vide che mancavano 5 minuti alle 4. «Si fa colazione così tardi di questi tempi che tanto vale mangiare solo 2 volte al giorno», disse il signor Brewster. «E di chi è la colpa?» dico io, sbottò la moglie. Come non lavorassi come una schiava da mane a sera in questo. Ma intendevo solo dire che le giornate sono molto corte, disse il signor Brewster alzando la voce. E allora di quello che intendi dire. La signora Brewster tirò un seggiolone vicino al tavolo, afferrò il bimbo e ce lo mise a sedere sopra di malagrazia. A tavola, disse il signor Brewster a Laura. Lei andò a sedersi nel posto libero. La signora Brewster le passò il piatto delle patate, la pancetta e il sugo. Era tutto buono, ma il silenzio pesava tanto che Laura faceva fatica a mandar giù i bocconi. È lontana la scuola da qui? Chiese, cercando di apparire di buon umore. Ma mezzo miglio se si prende per i campi, disse il signor Brewster. Era la baracca di un colono. Ma il tizio che aveva preso quella concessione non ce l'ha fatta, ha mollato tutto e se n'è tornato all'est. Poi tacque anche lui. Il bimbetto smaniava cercando di afferrare tutto quello che vedeva sul tavolo, poi di colpo buttò il suo piatto per terra con tutto quello che conteneva. La madre gli dette una botta sulle mani e lui si mise a strillare come un'aquila e continuò per un pezzo prendendo a calci la gamba del tavolo. Quando finalmente ebbero finito di mangiare, il signor Brewster prese il secchio del latte da un chiodo e andò nella stalla. La moglie mise il bambino a sedere sul pavimento e a poco lui si calmò. Nel frattempo Laura l'aveva aiutata a sparecchiare, poi andò a prendere un grembiule nella sacca, se lo legò sopra il vestito, prese uno strofinaccio e si mise ad asciugare i piatti, via via che la signora Brewster li lavava. Come si chiama il bambino, signora Brewster? Chiese, sperando che ora la donna si mostrasse un po' più cordiale. John. È un bel nome, disse Laura. Lo si può chiamare Johnny finché è piccolo, poi, quando cresce, resta John, un nome adatto a un uomo. Lo chiamate Johnny voi? La signora Brewster non rispose. E il silenzio divenne ancora più pesante. Laura si sentiva la faccia in fiamme. Andò avanti ad asciugare i piatti meccanicamente e quando ebbero finito la signora Brewster buttò fuori l'acqua e appese la padella a un chiodo. Poi andò a sedersi sulla sedia a dondolo e se ne restò là, senza far nulla, dondolandosi lentamente, mentre Johnny si infilava sotto la stufa e tirava fuori il gatto per la coda. Quello lo graffiò e lui ricominciò a piangere. E la madre non si mosse. Laura non osava intervenire. Johnny strillava, la signora Brewster si dondolava con aria scontrosa e lei se ne stava seduta sulla sedia a guardare fuori dalla finestra. La strada proseguiva diritta in mezzo alla neve e si perdeva in lontananza, 12 miglia da casa. A quell'ora mamma stava preparando la cena. Carrie era tornata da scuola e tutte e due ridevano e chiacchieravano con Grace. E a breve sarebbe arrivato anche papà. Avrebbe preso Grace in braccio e l'avrebbe fatta volare fin quasi al soffitto, come faceva sempre anche con lei quando era piccola. A tavola avrebbero chiacchierato di tante cose e dopo cena si sarebbero seduti tutti lì a leggere sotto la lampada mentre Carrie faceva i compiti. E poi magari papà avrebbe suonato il violino. Lì, invece, la stanza era immersa nel buio. Fuori la strada non si vedeva più, solo quando il signor Brewster tornò dalla stalla, la moglie finalmente accese la lampada, poi filtrò il latte e mise via il secchio, mentre il marito si sedeva a leggere il giornale. Non si erano scambiati una parola. Quel silenzio non era solo pesante, era sgradevole. Laura non sapeva che fare, era troppo presto per andare a letto, non c'era un altro giornale né un solo libro in tutta la stanza. Decise di andare a prendere i suoi libri di scuola. Dovette cercarli al buio, a tentoni. Si sentì sotto le dita il libro di storia e prese quello, tornò di là e si mise a studiare. Se non altro, niente mi distrarrà dallo studio, pensava scorata. Le sembrava di essere tutta pesta, come se l'avessero picchiata. Ma a poco, concentrandosi sul libro, dimenticò dov'era. Quando sentì battere le 8, si alzò e augurò cortesemente la buonanotte. La signora Brewster non rispose e il signor Brewster disse «Buonanotte». Nella stanza gelida Laura si svestì tremando, mise la camicia da notte di flanella e si infilò nel letto e tirò la tenda. Il cuscino era di piume, c'erano lenzuola e trapunte, ma il divano era molto stretto. Di là la signora Brewster si era messa a parlare fitto fitto, si capiva che era arrabbiata. Laura si era attirata le coperte sulla testa, lasciando fuori solo il naso, ma non poté fare a meno di sentire qualche frase. Farà piacere a te, ma sono io che ho una persona pigione. E poi, questo postaccio in capo al mondo, maestra, sicuro, la facevo anch'io la maestra se non sposavo un. Non vuole avere una persona in casa, tutto qui, pensò Laura. Non ce l'ha con me, farebbe così con chiunque. Certo, Cercò di non sentire altro e di addormentarsi, ma per tutta la notte, anche nel sonno, fece attenzione a non cascare da quel divano così stretto. Aveva una gran paura del giorno dopo, come se la sarebbe cavata. Primo giorno di scuola. Laura sentì sbattere lo sportello della stufa. Per un attimo ebbe la sensazione di essere nel suo letto con Mary e che ad accendere la stufa nell'altra stanza fosse papà. Poi vide le tende di cotonina e ricordò dov'era, e anche che quel giorno doveva cominciare a fare la maestra. Sentì il signor Brewster prendere il secchio del latte e uscire sbattendo la porta. Dall'altra parte della tenda la signora Brewster si alzò dal letto. Johnny piagnucolò un momento, poi smise. Laura non si mosse. Le attraversò la mente il pensiero che forse se stava immobile, ma proprio immobile, quella giornata non sarebbe mai cominciata. Il signor Brewster tornò col latte. Laura lo sentì dire: «Vado ad accendere la stufa a scuola, torno per colazione». La porta sbatté di nuovo. Di colpo gettò via le coperte. La stanza era gelida, le battevano i denti, aveva le dita così fredde che fece fatica ad allacciarsi le scarpe. In cucina si stava un po' meglio. La signora Brewster aveva rotto il ghiaccio nel secchio dell'acqua e stava riempiendo il bollitore. Rispose gentilmente al buongiorno di Laura. Lei riempì il catino e si lavò le mani e la faccia sulla panca accanto alla porta. L'acqua ghiacciata pungeva la pelle e quando si guardò allo specchio per pettinarsi aveva tutta la faccia arrossata. La pancetta sfrigolava nella padella sulla stufa. La signora Brewster stava affettando in un'altra padella le patate rimaste dalla sera prima. Di là, Johnny si era messo a piangere. Laura si puntò la treccia sulla testa, si mise il grembiule e disse: «Vado io alle patate, lei vada pure da Johnny». Mentre la signora Brewster vestiva il bambino accanto alla stufa, lei finì di affettare le patate, le salò, aggiunse un po' di pepe e le coprì. Poi girò le fette di pancetta e apparecchiò la tavola per bene. «Ha avuto ragione, mamma, a farmi portare un grembiule grande», disse. «Così non rischio di sporcarmi il vestito, giusto?» La signora Brewster non rispose. Ormai il fuoco aveva preso bene e la stanza si stava scaldando, ma era deprimente lo stesso. A tavola non si dissero altro che le parole strettamente necessarie. Quando finalmente fu il momento di andare a scuola, Laura tirò un sospiro di sollievo, prese i libri, il secchiello del pranzo e uscì. Doveva fare mezzo miglio nella neve. Non c'era altra traccia che quella lasciata dal signor Brewster, che però aveva il passo troppo lungo perché lei potesse ricalcarne le orme. Era lì che camminava affondando nella neve, quando a un tratto scoppiò a ridere. «Eccomi qui!» pensò. «Non vorrei andare avanti, ma non tornerò indietro. Insegnare non può essere orribile quanto stare in quella casa con la signora Brewster. Comunque non può essere peggio». Ma a quel punto le venne un tale spavento addosso che dovette dirsi a voce alta: «Cammina! Devi andare a scuola!» Un filo di fumo nero si levava dal tubo della stufa sul tetto della baracca. Ora c'erano altre due file di passi che andavano verso la porta e Laura sentì delle voci provenire dall'interno. Si fermò un istante per farsi coraggio, poi entrò. Le pareti erano di tavole senza listelli di commessura. Strisce di sole cadevano dalle fessure sull'unica fila di banchi che correva in mezzo alla stanza. Erano banchi molto semplici, di legno grezzo, evidentemente costruiti alla bella e meglio sul posto. Ai montanti della parete di fronte, alla porta, era inchiodato un quadrato di tavole tinte di nero che fungeva da lavagna. Davanti ai banchi c'era una grossa stufa con il coperchio e le pareti stondate incandescenti per il calore del fuoco. E lì attorno erano raccolti gli scolari. Si voltarono tutti a guardarla. Erano cinque, due maschi e una ragazza. Erano più alti di lei. «Buongiorno», riuscì a dire Laura. Risposero tutti senza levarle gli occhi di dosso. Da una finestrella accanto alla porta entrava un fascio di sole. Più in là, in un angolo accanto alla stufa, c'erano un tavolino e una sedia. «Quella deve essere la cattedra della maestra», pensò Laura. E poi: «Oh, signore! La maestra sono io!» I suoi passi risuonarono nel silenzio, tutti gli occhi la seguirono. Mise i libri e il secchiello del pranzo sul tavolo, si levò il cappotto e il berretto e li appese a un chiodo vicino alla sedia. Sul tavolo c'era un orologio, segnava le 9:05. Doveva far passare ancora 5 minuti prima di poter iniziare la lezione. Si levò lentamente i guanti e li mise nella tasca del cappotto, poi si girò a guardare tutti quegli occhi che la fissavano e si avvicinò alla stufa. Tese le mani come volesse scaldarle e I ragazzi le fecero spazio, sempre tenendole gli occhi puntati addosso. Doveva dire qualcosa, doveva assolutamente dire qualcosa. Freddo stamani, eh? Sentì dire la propria voce. Poi, senza attendere risposta, aggiunse: Avrete abbastanza caldo anche nei posti più lontani dalla stufa? Uno dei ragazzi più grandi disse subito: Mi siedo io in fondo, è il posto più freddo. Charles e io dobbiamo stare vicini, disse la ragazza alta. Abbiamo un libro in due. Va bene, disse Laura. I posti più vicini alla stufa restano agli altri allora. Ed ecco che con sua sorpresa erano già passati 5 minuti. Andate a sedervi, disse. Cominciamo la lezione. La bambina più piccola sedette nel primo banco. Dietro di lei c'era un maschietto, poi la ragazza alta e Charles e in fondo l'altro ragazzo grande. Laura picchiò la matita sul tavolo. Per prima cosa ditemi come vi chiamate e quanti anni avete. La bambina si chiamava Ruby Brewster e aveva 9 anni. Aveva capelli castani e scintillanti, occhi scuri ed era dolce e quieta come un topolino. Sarebbe stata una scolara docile e gentile. Aveva finito il libro di prima e in aritmetica era arrivata alle sottrazioni. Il bambino si chiamava Tommy Brewster, aveva 11 anni, aveva finito la seconda ed era arrivato alle divisioni semplici. I due che avevano un libro solo erano Charles e Martha Harrison. Charles aveva 17 anni, era alto, magro e lento di parola. Martha ne aveva 16, ma era più sveglia del fratello e rispondeva anche per lui. L'ultimo si chiamava Clarence Brewster. Anche lui era più grande di Laura. Aveva gli occhi ancora più scintillanti e più scuri di quelli di sua sorella Ruby. Capelli castano scuro, folti e disordinati. Rispondeva con prontezza ed era veloce e scattante nei movimenti. La voce aveva una sfumatura d'impertinenza. Clarence, Charles e Martha erano tutti in quarta, erano a metà del programma di ortografia e in aritmetica stavano facendo le frazioni. In geografia avevano fatto gli stati del New England. Alle domande seppero rispondere così bene che Laura disse che potevano passare agli stati del Medio Atlantico. Nessuno di loro, invece, aveva mai studiato grammatica né storia, ma Martha aveva portato il libro di grammatica di sua madre e Clarence aveva un libro di storia. Molto bene, disse Laura. Comincerete tutti grammatica e storia dall'inizio. Vi scambierete i libri, così potrete studiare queste materie tutti e tre. Nel frattempo era arrivata l'ora dell'intervallo. I ragazzi si vestirono per uscire a giocare nella neve e Laura tirò un sospiro di sollievo. Il primo quarto del primo giorno era andato. Poi cominciò a programmare il lavoro. Avrebbe fatto lettura, aritmetica e grammatica la mattina e di nuovo lettura, storia, scrittura e ortografia nel pomeriggio. Le classi di ortografia erano tre, perché Ruby era molto più indietro di Tommy. Passato un quarto d'ora andò a picchiare sui vetri per chiamarli in classe. Poi, fino a mezzogiorno, li fece leggere a voce alta, correggendo con pazienza gli errori di intonazione e di pronuncia. L'intervallo di pranzo, un'ora intera, passò lentamente. Laura mangiò il suo pane e burro da sola, seduta al suo tavolino, mentre gli altri si misero tutti attorno alla stufa a ridere e scherzare tra loro. Poi i maschi uscirono a fare le corse nella neve e Marta e Ruby restarono a guardarli dalla finestra. Laura se ne stette seduta al suo posto, ora che era la maestra doveva comportarsi da maestra. Quando anche quell'ora finalmente fu passata, andò di nuovo a picchiare sui vetri. I ragazzi rientrarono di corsa col fiato che si condensava in nuvolette e la faccia colorita dal freddo e dal movimento. Dai cappotti, mentre si spogliavano, venne una ventata d'aria gelida. Laura disse: Il fuoco langue, Charles, puoi aggiungere un po' di carbone per cortesia? Di buon grado, ma con estrema lentezza, Charles sollevò il secchio del carbone e lo rovesciò quasi tutto nella stufa. Lo faccio io la prossima volta, disse Clarence. Forse non era sua intenzione essere impertinente, ma se invece sì, che cosa poteva dire Laura? Era un ragazzo grande e grosso, più alto di lei e anche più vecchio di età. La guardava con gli occhi che ridevano. Laura cercò di apparire più alta che poteva e picchiò la matita sul tavolo. Silenzio, cominciamo la lezione, disse.